Ciao, io sono Laura Boltolina e questa newsletter è I cerchi non si chiudono. Ho sempre creduto di essere più brava a partire che a tornare. Invece nella realtà sono le partenze e non i ritorni ad avere una cifra surreale che Almodóvar mi spiccia a casa. Quelle in aereo decisamente superano le altre quanto ad assurdità. Ad esempio, quella volta in cui il parcheggio era pieno e io talmente in ritardo da non poterne cercare un altro, così ho strizzato la mia macchina in un angolo e non c'era proprio spazio per aprire le sportelli. Così, memoria del fatto che sono pur sempre un'insegnante di yoga, sono uscita dal finestrino. Oppure quell'altra volta che dovevo guidare un workshop, guarda caso sull'ansia, a Maiorca e ho calcolato malissimo i tempi per arrivare all'aeroporto di Venezia col bus diretto, perdendo il tram che mi avrebbe portata al bus e trovandomi a doverci andare in taxi verso il suddetto bus. E il tassista ha concluso: intercettiamo il bus dopo che è partito, ti porto alla fermata successiva, altrimenti lo perdi. E mi ha fatta scendere, giurando che il mio bus per l'aeroporto sarebbe arrivato nel giro di qualche minuto. E in effetti un bus era arrivato, e diretto a Venezia, sì, ma non all'aeroporto. Quella deviazione su Venezia aveva allungato di un tempo impossibile il viaggio e non ho perso volo e workshop per un soffio. Però il bus si è fatto tutta la riviera del Brenta e così mi era passata sotto il naso un sacco di bellezza che frequentavo poco e invece la fiducia mai riposta nell'istinto di un tassista mi aveva portata nel bello e insomma un po' ne è valsa la pena di arrivare a bordo col cardiopalma. In realtà la partenza è una predisposizione a un cambiamento, anche quando non ne siamo consapevoli. Partiamo e cambiamo. Il ritorno? Quello ci serve a toccare con mano come siamo cambiati. Perché non torniamo mai al punto di partenza, anche quando è un rientro da un viaggio fisico e allora crediamo di ritrovare la nostra finestra, il nostro letto, le nostre piante esattamente come le avevamo lasciati. La casa che ritroviamo è familiare, certo, ma è sempre leggermente diversa da come era quando siamo partiti. Pensiamo, tornando, di chiudere un cerchio, e invece no. Non chiudiamo un bel niente perché non si tratta di un cerchio, ma di una spirale. Ad ogni giro corrisponde un'ottava diversa, come nella musica, e non rifacciamo mai la stessa, identica nota. Magari adesso ti sarà venuto in mente qualche tuo cambiamento, di quella volta che sei partita o partito, ritornata, ritornato, e non eri proprio la stessa identica persona. E no, il viaggio non ha sempre a che fare con treni, aerei, insomma, spostamenti nello spazio. Può essere stata una conversazione, una lettura, un film, un ricordo nuovo a cui non avevi più ripensato. Se ti va, mi farebbe moltissimo piacere che me lo raccontassi rispondendo a questa email. Scopriremo insieme come partire, tornare e ripartire. Lampi di genio alla scoperta di nuove idee è il weekend yoga in Toscana dal 5 al 7 luglio. Cosa hanno in comune Hermes, il messaggero degli dei olimpici, e Ganesha, la divinità indiana con la testa di elefante? E entrambi ci aiutano a scoprire nuove idee. Ci assicurano il lampo di genio, la mossa creativa, la partenza e la ripartenza. Li incontriamo sulle colline senesi durante il weekend yoga dal 5 al 7 luglio. Il centro Monte Auto mi ha messo a disposizione una camera doppia in più, quindi se vuoi trovare il tuo modo per abbracciare i lampi di genio, scrivimi per unirti a Hermes, Ganesha e al bellissimo gruppo che non vede l'ora di iniziare. Pensa a lunedì 8 luglio alle 19:30. Se sei a Padova o passi di vicino, vieni con me sui Colli Euganei a Teolo per una serata di yoga e mitologia insieme. L'incontro è Stella Polare, il fiore dell'universo. Scopriremo che se tutto fluisce, sempre e comunque, c'è anche un punto stabile che ci guida nella nostra direzione, che ci aiuta a tenere la rotta dopo i momenti di distrazione che ci invita ad essere tenacemente noi stesse e noi stessi. Abbiamo pochi posti e se ci sarà bel tempo saremo all'aperto. Dai, prenditi la serata per incontrare la tua stella polare. Scrivimi. Vuoi partire per un viaggio alla scoperta della tua bussola interiore? Il percorso online, la bussola interiore, ritrovare la direzione autentica, è a disposizione fino al 24 agosto. Avrai l'estate per individuare la tua bussola, il tuo specifico funzionamento. L'iscrizione comprende 6 incontri registrati più un introduttivo di 40 minuti ciascuno. Un incontro individuale di 30 minuti con me personalizzato da fissare dopo il 24 agosto, cioè dopo che avrai completato il percorso, in cui potremo andare insieme, per mano, a trovare delle risposte ai tuoi dubbi o aggiustare la tua pratica personale. Scrivimi per iscriverti. Attenzione! Dal 16 luglio al 22 agosto non potrò accettare nuove iscrizioni a questo percorso, quindi se ti interessa, contattami adesso, per favore. Se leggi e ascolti abitualmente questa newsletter, ti ricorderai che di solito a questo punto inserisco una citazione da qualcosa che sto leggendo in questo momento. Sono le parole che scelgo per noi. Oggi facciamo a cambio. Se ti va, mi scrivi tu a me la tua citazione, che sia la tua citazione preferita o qualcosa che ti ha colpito negli ultimi giorni. Sono curiosa di ricevere le parole che oggi tu sceglierai per noi. Un grandissimo, grandissimo abbraccio, Laura.